Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 15 novembre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città e che va in onda un'ora al giorno su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Ciao Antonella Cortese, la mia collega di redazione, la nostra collega di redazione, sempre qui con me, ciao. Ciao Caterina, ben trovati tutti. Allora Antonella, oggi partiamo con un lunedì, con una notizia veramente bella, perché siamo nel corso di un'intesa tra la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, quindi il Ministero della Giustizia, e il Ministero della Cultura. Infatti il titolo che leggo dalla redazione è Detenuti, il reato si ripara nei luoghi d'arte, intesa Cartabia-Franceschini sulla rieducazione. Eh sì, perché la Ministra Cartabia tante volte ha citato la Costituzione che parla di pena, certo, e non di carcere, per chi ha condanne sotto i 4 anni, e a questo ha fatto da ritornello il ministro della cultura Dario Franceschini, dicendo che servono i luoghi della bellezza, ecco, possono essere utili per riparare il danno. E quindi se la Costituzione non parla di carcere ma di valenza rieducativa della pena, come tante volte ha sottolineato la ministra Cartabia anche durante la sofferta gestazione della riforma penale, quando intorno a lei si agitavano diverse voci scettiche, ecco, così non è stato, anzi molti sono stati plausi quando il suo discorso ha toccato insistentemente il tema della giustizia riparativa, quella che non si risolve nello scontare soltanto gli anni di galera, ma nel riparare il reato commesso. Caterina, ma sono solo parole o ci sono anche dei fatti dietro queste affermazioni, che è la cosa che ci preoccupa sempre in realtà? Guarda, questa volta non soltanto ci sono dei fatti dietro le parole, ma delle persone, e persone in carne e ossa, per la precisione 102 e destinate a 52 luoghi per la messa alla prova. E non sono luoghi qualunque, due persone destinate per ogni luogo, e sono luoghi questi famosi dove questi uomini e queste donne prive della libertà personale si ritroveranno a vivere e a svolgere un lavoro di pubblica utilità. Hanno commesso un reato che comporta una pena sotto i 4 anni, e questa soglia naturalmente non è superabile, ma loro saranno messi alla prova e andranno a svolgere un lavoro anziché affrontare il processo se la messa alla prova avrà un esito positivo. Caterina, ma siccome la bellezza è contagiosa, diciamolo subito, di quali luoghi famosi stiamo parlando? Stiamo parlando di luoghi molto famosi d'Italia e l'elenco comprende 52 luoghi, in molti casi sono anche il simbolo delle città in cui si trovano. Per esempio c'è il Museo Nazionale d'Arte a Matera, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, la Pinacoteca di Bologna, il Palazzo Reale di Genova, ma anche i Musei Reali di Torino, il Museo, il Parco e il Castello di Miramare a Trieste, il Palazzo Ducale di Mantova, la Biblioteca e il Complesso Monumentale dei Girolamini, ma anche tante biblioteche, per esempio quella Nazionale di Firenze e Roma, la Marciana di Venezia, la Biblioteca di Bari, le Biblioteche di Firenze e le Biblioteche Statali di Lucca e Macerata, e poi altre biblioteche molto famose di Padova, Pavia, Pisa, Potenza, Sassari e Trieste. Senti, nell'accezione della ministra Cartabia e di Franceschini, qual è l'utilità di tutto questo programma? Come ha detto Cartabia, sarà una riparazione nei confronti della persona offesa e anche della collettività. E i vantaggi quali sono? Alleggerire certo il carico dei tribunali, dare sollievo alle strutture detentive ed evitare per le persone il passaggio in carcere, e soprattutto stimolare la cultura della pena come riparazione nei confronti delle persone offese e della collettività. Questa convenzione ha un grande valore, quindi pragmatico e anche simbolico, perché si aprono 52 siti e aprono le porte a persone sottoposte alla misura della messa alla prova. Ecco, proprio per questo ti volevo chiedere, ci sono dei dati sugli anni passati dei messi alla prova? Allora, dal 2014 al 15 ottobre scorso, le persone che avevano commesso un reato e sono state messe alla prova sono solo più di 23.000, mentre le persone che invece hanno avuto un regolare processo e dopo hanno svolto o stanno svolgendo lavori di pubblica utilità sono solo 8.692. Finora però funzionava diversamente, potevi essere messo alla prova presso organizzazioni come la Croce Rossa, il Fondo Ambientale Italiano e la Lega Ambiente. Adesso invece per la prima volta un ministero come quello della Cultura mette a disposizione i suoi siti per mettere alla prova le persone. Senti, e quali sono i reati per i quali poi possono essere messi alla prova e partecipare a questo programma, a questa convenzione? Lo so che è un po' brutto fare la sciorinatura dei reati, però insomma è così. La ministra Cartabia li ha elencati, si tratta del furto, danneggiamento di beni culturali, omissione di soccorso, lesioni personali o stradali. E è anche importante quello che ha detto il ministro Franceschini, dicendo che è importante che i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova trovino applicazione nei luoghi della bellezza, perché non si può pensare che ciò non possa fare del bene alle persone che verranno coinvolte. Ma restando in tema di bellezza, c'è anche la musica di questa settimana, tutta la playlist che è molto molto bella. Siamo con Elton John, che sicuramente è uno dei più importanti artisti del pop rock contemporaneo. E allora ascoltiamo Your Song, la tua canzone, un brano del 1970, e restate con noi a tra poco, sempre su Liberi Dentro. Boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're. Well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. E rieccovi, bentornati su Liberi Dentro di Radio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Siamo con te, Antonella, con notizie che parlano oggi dell'effetto dei cambiamenti climatici su chi? Sui giovani. Eh sì, Caterina, perché da poco c'è stato il G20 a Roma, poi c'è stato il COP26 a Glasgow, c'è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021, al quale tra l'altro Cina e India non hanno partecipato. I giovani poi hanno cominciato a manifestare e Greta Thunberg ha detto: sono solo parole. Ecco, partiamo da questo presupposto per capire che cosa cambiano i cambiamenti climatici nei giovani. C'è un aumento esponenziale di malessere, di angoscia, di ansia ecologica cosiddetta, per il futuro del pianeta e delle loro vite. Lo affermano alcuni psicologi in uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet. I loro sentimenti di rabbia e ovviamente di paura e impotenza non derivano solo dai danni ambientali, ma soprattutto dalla mancanza di volontà da parte degli adulti di fermarli. E questo nonostante le molte soluzioni disponibili e la schiacciante evidenza dei rischi esistenti. Questo sostiene la ricerca. Gli adulti non sono particolarmente d'aiuto. Antonella, cosa dicono gli psicologi riguardo a questi sentimenti giovanili abbattuti? Allora, Caterina, l'ansia ecologica è un segnale di salute mentale, ovviamente. Una risposta decisamente appropriata a quello che sta accadendo, e lo dice Caroline Hickman, psicoterapeutica e principale autrice di questo studio internazionale. Ma voglio citare anche un'attivista tedesca del movimento studentesco Fridays for Future, Luisa Neubauer, che dice che l'inerzia del leader mondiale nei confronti del riscaldamento globale è un qualcosa di troppo grande da gestire o da accettare, che l'impatto sui giovani è molto forte, si vedono sgretolare il mondo quando poi in realtà ci sono delle soluzioni disponibili e si può fermare in qualche modo la crisi. Però lo Stato ci sta spingendo nel baratro, e questo la forma Luisa Neubauer. E rimaniamo a un dato statistico. Quanti sono i giovani frustrati e impauriti? Allora, secondo sempre lo studio di cui stiamo parlando, che è stato condotto su 10.000 bambine, bambini e adolescenti in 10 paesi del mondo, più della metà delle persone intervistate, nello specifico in paesi come India, Brasile, Nigeria, Regno Unito, Australia e Stati Uniti, ha dichiarato di temere per la sicurezza della loro famiglia e che l'ansia influenza la loro capacità di dormire, studiare, mangiare o giocare. Pensa a te, stiamo parlando di bambini e adolescenti. 4 su 10 hanno dichiarato che la crisi climatica li rende incerti sul futuro, sull'avere dei figli, e oltre la metà di loro ha ammesso di ritenere che l'umanità sia spacciata. Poi ci sono ragazze e ragazzi delle Filippine, colpiti da cicloni sempre più gravi, e del Brasile, un paese vittima della deforestazione selvaggia, che sono tra i più preoccupati. Tra loro 9 su 10 sono veramente molto molto impauriti, oltre che preoccupati, e questo lo dice la statistica. Ma anche quelli che vivono in paesi più ricchi hanno dato segnali di angoscia, ovviamente. Questo studio potrà aiutare i giovani a proporre delle azioni legali sul clima. Guarda, giovani attivisti dal Portogallo alla Colombia, passando anche dagli Stati Uniti, ovviamente, sono all'origine di un numero crescente di petizioni e cause legali per chiedere un'azione più rapida sul cambiamento climatico, di solito per motivi che hanno a che fare con la difesa dei diritti umani in realtà. L'anno scorso, per esempio, 6 bambini e giovani adulti portoghesi hanno chiesto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di intimare a 33 paesi di applicare tagli più decisi delle emissioni del CO2. Spiegando che le risposte inadeguate dei governi mettono in pericolo il loro futuro. E ti faccio un'ultima domanda: cosa potrebbe ridurre i rischi per la salute mentale, ecco, dei giovani? Allora direi proprio i rischi a tutto tondo. Quello che farà veramente la differenza sarà spingere molte più persone a considerare la crisi climatica come una questione che le riguarda da vicino e costringere effettivamente i governi al cambiamento. Lo dice sempre l'attivista di cui abbiamo parlato prima, la Neubauer, e lei conclude dicendo: dobbiamo fare di più, dobbiamo fare più pressione, bisogna che più persone adulte capiscano che questo è anche un loro problema, che lo è per tutti e abbiamo bisogno di tutti. E quindi con queste parole io lancerei una canzone in realtà di Amadou e Mariam, che si chiama Je pense à toi. Subito dopo, Antonella, diamo la parola a Lorenzo di Tecnotrade, che intervista Carolina Sifontes, mediatrice culturale presso il carcere Rocco D'Amato di Bologna. Thank you. Buongiorno a tutti e bentornati con una nuova intervista insieme a Carolina Sifontes, coordinatrice operativa del servizio di mediazione interculturale per il carcere di Bologna. Allora, l'ultima volta abbiamo parlato del rapporto mediatori e persone carcerate, analizzando le modalità di intervento dei mediatori e capendo nel concreto quali sono le richieste e i bisogni più comuni che fanno le persone detenute. Ecco, oggi invece approfondiremo il tema più legato alle difficoltà dei mediatori culturali nel contesto carcerario. E tu Carolina, durante il tuo lavoro riscontri delle differenze nelle richieste e nei bisogni da parte dei nuovi giunti rispetto invece a coloro che si trovano in carcere da più tempo? Sì, già collegandoci alla risposta prima, sì, perché mentre la prima è più di emergenza, cioè fate sapere che sono qui, chiaro c'è una procedura del carcere che sono loro che avvisano formalmente, però a volte il carcere non possiede la lingua, no? Ha bisogno del mediatore per avvisare anche che la persona è in carcere. Ci sono situazioni molto particolari e ovviamente dopo che la persona è più in carcere si indirizza più per il lavoro, no? E come accedere allo sportello? C'è uno sportello, quindi noi diamo l'indicazione delle persone che deve fare le domandine allo sportello, lavoro, eccetera. E le occasioni di studio, e diciamo che la persona una volta che ha un po' il controllo può iniziare a pensare ad altro. No, al okay. Tempo, al tempo che passa e a come utilizzarlo. E non tutte le domande ovviamente possono essere esaudite perché a volte richiedono questioni che esulano del nostro servizio. E, ad esempio di dire potete chiamare l'avvocato che non lo sento o che ho un bisogno impellente, da dirle allora se lui ha già usato le sue telefonate o meno. Insomma, noi ci veniamo un po' incontro su questi bisogni che emergono. Sì, dopo si indirizzano più sul lavoro e su cosa fare all'interno del carcere in realtà. E adesso una breve pausa per un piccolo intervallo musicale. Thank you. E dopo un breve stacco musicale siamo di nuovo qui in compagnia di Carolina Sifontes. Continuiamo la nostra intervista. Io immagino, Carolina, che a volte non si riescano a soddisfare però tutti i bisogni richiesti dalle persone detenute. E quindi in quest'ottica ti chiedo, le difficoltà maggiori che riscontrate in qualità di mediatori quali sono? E ci sono richieste che per voi risultano particolarmente complicate da soddisfare? Allora, ci sono richieste che noi non possiamo soddisfare perché un po' non sono compito del nostro servizio. È chiaro che la persona detenuta non ha subito chiaro chi ha davanti, no? O sea, arriva un mediatore interculturale, per lui a volte confonde i ruoli, è un educatore, è un assistente sociale, è un mediatore, oppure semplicemente tu sei lì davanti, lui ha tante richieste da fare e te le fa tutte. Quindi, ad esempio, se una persona, no, che ha dei figli minori, che non si sa bene qual è la sua situazione, ti può chiedere delle questioni che noi non possiamo risolvere. Ma secondo me la cosa più importante è che una volta che tu hai chiaro il sistema dei servizi, cioè la rete, sia quella sociale fuori e sia quella dentro, anche le domande che possono arrivare al mediatore che non sono di questo servizio, tu le puoi indirizzare agli altri. A volte ci sono domande che proprio non si può rispondere, proprio anche per una questione di sicurezza, cioè chiama il mio amico con il quale io ho un debito che lasci i soldi all'altra persona, insomma, domande umane, no? Che magari una persona fuori riesce a risolvere con una telefonata. Però che noi come mediatore non possiamo entrare nello specifico della vita della persona fuori. E le cose più complicate, ma più complesse, perché a livello umano sono veramente difficili da fare, sono ad esempio i lutti di famiglie. Quando noi dobbiamo comunicare a un detenuto che un familiare è deceduto o viceversa. E queste sono cose abbastanza complesse, ma non perché siano complicate, ma perché umanamente tu hai una comunicazione telefonica con una persona e dire a un detenuto che la madre è deceduta, che il fratello, che qualcuno è deceduto, o al contrario, a un padre che è un figlio detenuto, è veramente una cosa abbastanza difficile da realizzare. È parte del nostro compito, però, qui. Altre cose noi le indirizziamo. Le indirizziamo. Ci sono molte questioni che riguardano i servizi sociali, i minori, ma questo è un tema delicato che riguarda i giudici tutelari, gli assistenti sociali, il permesso per vedere i figli che noi non sappiamo bene perché il detenuto è in carcere. Dovete sapere che noi non abbiamo accesso a tutti i dati del detenuto, noi andiamo solamente su quello che ci dice la persona. Noi non sappiamo i reati per i quali le persone stanno lì, a meno che loro non li raccontino, però è quasi marginale nel nostro lavoro, perché noi siamo lì per dire alle persone quali sono i diritti fondamentali e come possono accedere ai servizi basici, no? Telefonate, lavoro, soldi, pacchi, visite, eccetera. E quindi molte delle cose noi non le veniamo a sapere in Certo. realtà, però lavoriamo lo stesso. Chiarissimo. Per oggi con Carolina è tutto, ci rincontriamo la prossima volta per un'altra intervista, sempre a parlare del lavoro e della funzione dei mediatori all'interno del carcere di Bologna. E anche oggi siamo arrivati ai saluti di fine puntata dopo aver ascoltato l'intervista a Carolina Sifontes a cura di Tecnotrade per ASP Bologna. Fra poco, seguiteci sempre con le nostre rubriche. Oggi parliamo di abbiamo Sogni dietro le sbarre, che è il documentario realizzato da Paolo Aleotti e girato nel carcere melanese di Bollate. Il tema è quello del reparto femminile e che cosa sia l'amore all'interno del carcere. E poi seguiteci ancora perché c'è una nuova rubrica, Scienze in una stanza, a cura di Federico Tibone, che è anche autore di testi scientifici per la casa editrice Zanichelli. Lui ci presenterà gli occhi, il cervello e come vediamo il mondo. Scriveteci sempre, redazione liberidentro, chiocciolagmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese e dal nostro Enea Flacco. Ciao, a domani. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.